Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, il ritorno di David Nichols, autore del bestseller Un giorno. Ora è in libreria con noi. Incontro con Sophie Kinsell. Stavolta il suo I Love Shopping va a Hollywood. Diario di una schiappa. Perché piace tanto la parola ai bambini? Quella che state sentendo era la colonna sonora di un film di grande successo, One Day, interpretato fra gli altri anche da Anne Hathaway. E perché questa musica? Beh, perché quel film era stato tratto da un romanzo di altrettanto successo che era stato pubblicato in Italia con il titolo Un giorno da Neri Pozza. L'autore era David Nichols e David Nichols è tornato ora nelle librerie con un altro romanzo che si intitola Noi, sempre pubblicato in Italia da Neri Pozza. Dopo dunque la storia di Emma e Dexter, infatti in One Day si raccontavano 20 anni fra amicizia e amore, raccontati solamente attraverso gli eventi di un giorno, che era il 15 luglio dal 1988 in poi, adesso c'è, come dire, un'altra avventura nel tempo e nello spazio. Questa volta il protagonista è Douglas, è un ombroso ma adorabile cinquantenne che si sente dire dalla moglie Connie: ti voglio lasciare, poche ore prima della partenza per un giro dell'Europa in famiglia. A Nichols ci sono voluti 5 anni per tornare ad affrontare un romanzo e anche di questo ne ha parlato nell'incontro con Marta Cagnola. Sentiamolo. Well, usually you write a book and you talk about it for 6 months and then it stops. Di solito quello che succede è che si scrive un romanzo. Dopodiché si passano circa 6 mesi a parlare di questo romanzo. Poi il processo si interrompe e si ricomincia da capo. Nel caso di One Day, no. Siamo andati avanti anni e anni, proprio perché quel libro l'avevo veramente adorato. Ero e sono ancora orgoglioso di quel libro e volevo continuare a parlarne. Ovviamente era impossibile arrivare a casa una volta fatto il book tour e cominciare a scrivere un'altra cosa con altri personaggi. Era impossibile per me tenere tutti questi concetti insieme in testa. So it took me a while to stop talking about the last one. And then I started writing a new one. Questo processo è durato più del dovuto e quando ho cominciato a scrivere qualcosa di nuovo mi sono reso subito conto che non era l'idea giusta. Ho pensato che sicuramente il mio pubblico avrebbe odiato quello che stavo scrivendo. Ho buttato via un altro anno o più per cercare di inseguire un'altra idea che fin dall'inizio capivo che non era l'idea giusta. Pursuing an idea that I knew in my heart was no good. Noi abbiamo l'impressione di aver incontrato un uomo di cui possiamo innamorarci ancora una volta, oppure semplicemente nei confronti del quale sentiamo molta empatia. Ma lei ha l'impressione di averlo incontrato, Douglas? Okay. While I'm writing, yes, I think so. And he's not fixed, you know, his face changes and his voice changes and... Sì. In effetti, questo personaggio, mentre scrivevo di lui, era veramente un personaggio in carne ed ossa per me, anche perché non è mai stato un personaggio fisso. È cambiato progressivamente da una bozza all'altra del libro. Per esempio, nelle prime bozze era un uomo che non capiva le battute. Poi l'ho reso più disposto a ridere di se stesso. Va detto che avendo io scritto questo romanzo in prima persona, con la voce di Douglas, la situazione diventa abbastanza simile alla recitazione, all'improvvisazione. Mentre si scrive, ci si fa trascinare dal personaggio. Mi sono reso conto che io stesso ho cominciato a comportarmi da Douglas. And I found myself behaving in slightly Douglas-like ways. Like he says, terrific is his favorite word to describe everything from, you know, sex to... Ad esempio, gli ho messo in bocca questa esclamazione per descrivere una cosa bella. Terrific, magnifico. La dice quando parla di sesso, di cibo, di qualsiasi cosa. E ho iniziato a usarla sempre anch'io. Scrivendo questo libro sono diventato una sorta di ventriloquo, più di quanto non mi fosse mai successo prima. Nei romanzi sentimentali di solito le donne si sentono vittime, adorano lamentarsi, a volte anche nella vita. Lei vede le donne e le racconta in modo diverso. I like, I mean, Emma in the last novel could be a little bit self-pitying and self-indulgent, but il personaggio del romanzo precedente, Emma, a volte tendeva a piangere su se stessa, ad autocompatirsi. Invece Connie è una dura, e Douglas adora questa caratteristica, il fatto che sia così irresponsabile, imprevedibile, che non sia sempre in controllo della situazione. Io sono d'accordo con lui. Se sei una persona molto quadrata e strutturata, ti senti rinascere quando incontri uno spirito libero come lei. Diciamo che in generale mi piace dipingere donne forti, divertenti, sagaci. Un autore inglese mi ha accusato di idealizzare, addirittura di adulare le donne. Io non penso che sia vero, ma anche se fosse, che c'è di male? Se fossero veramente idealizzate, non avrebbero anche dei momenti di crudeltà e di egoismo come Connie. Poi, in effetti, nella letteratura c'è questa tradizione di donne sagge, dalla lingua rapida, più furbe degli uomini. Pensiamo ad esempio alle donne di Tanto rumore per nulla di Shakespeare, oppure Elizabeth Bennet di Orgoglio e pregiudizio. O anche nella cinematografia, i personaggi di Catherine Hepburn e Carol Lombard. C'è una tradizione, diciamo, che ha influito su di me. So perhaps it's that as well. Lei ha molti lettori maschi che l'amano molto perché dicono che lei dipinge l'amore com'è e non come dovrebbe essere. Maybe I certainly try to avoid sentimentality and predictability and forse diciamo che evito i sentimentalismi, la prevedibilità, ma rimane il fatto che queste sono storie d'amore. In Gran Bretagna la popolazione di lettori è composta per il 70% di donne e gli uomini, oltretutto, tendono a non leggere le storie d'amore. Ho cercato di rompere questa abitudine. Quando scrivo, tendo a non pensare a chi mi leggerà, se è uomo o donna. Cerco di non farmi delle idee. Penso però che le donne siano lettrici molto, molto intelligenti. Si rendono conto se un libro sciorina troppo sentimentalismo. Anche a loro piace una storia d'amore un po' più dura, cupa, triste. Also like love stories that are maybe a little tougher or darker, sadder. Sono contento se questa affermazione è vera, ma io non mi sforzo di renderla tale. D'altra parte però me lo chiedo, perché gli uomini non amano leggere storie d'amore? L'amore, il matrimonio, una relazione importante sono eventi centrali anche nella vita degli uomini. Sicuramente più del lavoro. È strano che non vogliano leggere di questi eventi così importanti. Shouldn't want to read something that's so central, so vital, so immense. Why would you avoid that subject matter? It seems strange. Russell Crowe ha già twittato che vuole fare un film da noi. At the moment it's only a book and I want to keep it that way for some time. Per ora è un libro e mi piacerebbe tenerlo così ancora per un po', perché quando passa dalla pagina scritta al grande schermo deve essere sottoposto a una grande operazione chirurgica e io sono troppo orgoglioso di questo libro per volere che sia sezionato, tagliato, fatto a pezzettini per il cinema. Poi ci sono anche questioni pratiche difficilmente superabili, perché sarebbe un film molto costoso, copre un arco di tempo molto lungo. Un attore dovrebbe passare dai 29 ai 54 anni. E sarebbe un film molto episodico, fatto di momenti singoli. Individual encounters and episodes, and that's a very hard thing to shape. But I'm pleased that I do think there's something in the idea of this chase across Europe. Eppure mi rendo anche conto che c'è qualcosa che potrebbe funzionare. Quest'idea dell'inseguimento in giro per l'Europa per salvare la famiglia, questo personaggio maschile in cui molti si sono ritrovati e che suscita le simpatie del pubblico. Ma voglio prendere le cose con calma. Dovranno convincermi e qualcun altro dovrà scrivere la sceneggiatura. Gli scrittori poi non partecipano mai al casting ed è giusto che sia così. In effetti Russell Crowe mi ha fatto i complimenti per il libro, ma non so se vorrebbe fare lui la parte. Not casting it. Oh yes, who do I have in my mind? I do have several people in my mind, and I can never, ever, ever, ever tell. because you know, what if someone else got cast? Diciamo che avrei tanti attori in mente, ma non potrò mai rivelarli. E se l'attore che interpreta il ruolo sapesse che era la quarta scelta, Sono cose che devono rimanere segrete. So it's one of those things that has to stay secret. È più difficile sopportare un grandissimo successo come quello di One Day o magari un fallimento? Well, I've been pretty lucky so far. I mean, nothing has been completely disastrous. Io finora sono stato abbastanza fortunato, perché non ho mai avuto grandi disastri, delle grandi catastrofi o degli insuccessi incredibili. Il successo è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Sarei bugiardo se dicessi il contrario. And I have very few complaints about it. The biggest complaint would be that it was a distraction and it made it very hard to write. Ho poco da lamentarmi, soprattutto del primo libro, se non del fatto che mi ha tenuto tanto lontano dalla scrittura. Ma è una lamentela di poco conto. I suspect that I'll probably primarily be known for that one book. Magari un domani ci si ricorderà di me come dell'autore di Un giorno, ma io vorrei essere ricordato come l'autore di Un giorno, ma anche di Noi. Sicuramente però, alla fine, è più difficile scrivere dopo un enorme fiasco che non dopo un enorme successo. Yes, it's much harder to write after a failure than it is after a success. E questo era David Nichols, ora in libreria con Noi, pubblicato da Neri Pozza. Il cacciatore di libri. Ancora uno scrittore straniero, anzi per la precisione una scrittrice inglese. Lei si chiama, in realtà il suo nome è un altro, ma insomma è conosciuta in tutto il mondo con lo pseudonimo di Sophie Kinsella. Beh, insomma, avete già capito quindi di che cosa parlo. Parlo di un'altra nuova, di una nuova puntata di I Love Shopping. I Love Shopping a Hollywood, pubblicato in Italia da Mondadori. Questo è il settimo libro della saga I Love Shopping. La protagonista, naturalmente, è sempre Becky, che stavolta deve scatenare, come dire, creatività e carte di credito a Hollywood, ovviamente anche a Rodeo Drive. Allora, nell'incontro con Sophie Kinsella, ne avevamo anticipato una parte anche nel Sabato del Villaggio un paio di settimane fa, dicevo, nell'incontro con Sophie Kinsella la prima cosa che naturalmente mi è venuto da chiederle è che rapporto ha con questo suo personaggio seriale, insomma con Becky. Le piace ritrovarla spesso nei suoi romanzi oppure ci sono momenti in cui la odia? Sentiamo che cosa ci ha raccontato la Kinsella. This is a very good question. My love affair with Becky ebbs and flows with every book, and I mean bottom line. È un'ottima domanda, effettivamente. La mia storia d'amore, per così dire, con Becky ha sempre degli alti e bassi, però tutto sommato alla fine devo dire che amo Becky. E come tutte le persone amate, poi ci sono dei momenti in cui mi rende frustrata, ci sono dei momenti in cui non la sopporto, ci sono dei momenti in cui, siccome sto scrivendo di lei, sono stufissima di parlarne, mi distraggo a causa di questo addirittura, e le circostanze estreme in cui continuo a portare Becky a volte mi fanno dire: caspita, no, fermati, che cosa fai? Esattamente come fanno i lettori, però poi la riporto in carreggiata, per così dire. È un po' come andare su un ottovolante. Si va su e giù continuamente, però in fondo il mio rapporto con Becky rimane un buon rapporto. But you know what? I mean, she's there for the duration. Me and Becky, we're a bit of a team now. I personaggi femminili dei tuoi libri, insomma, a iniziare da Becky, sono delle donne forti, ironiche, ma che hanno delle debolezze, per esempio lo shopping, appunto. Come vivono questi contrasti? I think like every woman, I like to think that every woman has a strength to her, which perhaps she needs to find. Le donne di cui parlo sono un po' come tutte le donne, no? Hanno un lato forte, che magari in alcuni casi è da scoprire, e l'altra cosa importante però è che devono anche essere capaci di ridere di se stesse, anche perché se uno non ride, non riesce a trovare un modo per ridere di se stesso, non riesce ogni tanto ad allontanarsi dall'essere sempre serio, c'è qualche cosa che non funziona, secondo me c'è qualche cosa che non va. È importante chiaramente piacersi, e piacersi anche dati i difetti che tutti abbiamo. Insomma, le donne di cui parlo sono donne come tutte, hanno una forza interiore e hanno dei difetti come tutti. But I think that's why people relate to my characters, because they recognize themselves in those people. A proposito delle donne di cui parli, veniamo poi alle donne invece che ti leggono. Io trovo che tutti i libri di Love Shopping siano molto trasversali, nel senso che piacciono alle ventenni, ma piacciono anche per esempio alla mia vicina di casa che ha 76 anni e si è completamente innamorata di Becky, anzi dice che io gliela ricordo un po', insomma, forse con livelli di spesa un po' diversi, ma insomma siamo lì. Secondo te perché Becky riesce a piacere a donne di età così diverse? It's been an amazing thing for me to see that, and often I go to a reading and I will have readers of sì, effettivamente è incredibile, mi capita di andare ad eventi dove vengono lette parti del mio libro e ho dalla ragazzina undicenne fino, come diceva lei, alle settantenni, e questo probabilmente è semplicemente perché sono persone e tutti i miei personaggi trattano di persone uguali a tutte le altre. Piacciono i miei personaggi alle persone che amano fare shopping, d'accordo, perché di quello spesso parlo, però anche le persone che odiano fare shopping in effetti molto spesso capiscono i miei personaggi, perché capiscono questa debolezza. Tutti noi abbiamo delle debolezze e quella può essere una debolezza, e poi tutto sommato tutte le persone che hanno un senso dell'umorismo, che vedono il mondo con un pochettino di ironia. A me capita di avere madre e figlia che appunto incontro nel lancio dei nuovi libri, e tutte e due, proprio perché hanno un buon senso dell'umorismo, apprezzano. I get mothers and daughters coming and telling me they read the books, they share, they look at life together through the books, and I just love that. Ho letto in un'intervista che sei appassionata di Jane Austen. Secondo te Becky ha qualcosa più in comune con il carattere determinato, forte di Lizzie Bennet o con la leggerezza di Emma? Oh, that's a brilliant question. I've never been asked that before. È una bellissima domanda, perché tra l'altro è una domanda che non mi è mai stata fatta ad oggi. In realtà un pochettino di entrambe, perché come Lizzie Bennet non ha paura di niente, è una persona sfidante. Becky è la persona che andrebbe dall'alfa degli uomini per affrontarlo a muso duro, per così dire. E poi chiaramente ha però anche tanti piccoli difetti, e in questo senso è più simile a Emma, a questo percorso che in un certo senso però la trasporterà non si sa bene dove, e questo appunto la rende più simile ad Emma, quindi ha un pochettino di entrambe. And gets carried away like Emma, so I think she's a beautiful mix of the two. Noi ora ci incontriamo qui a Milano, che insomma è una delle capitali internazionali della moda. Hai mai pensato di ambientare un tuo I Love Shopping a Milano, e qual è la tua griffa italiana preferita? Well, love Milan, and Becky loves Milan. She has been to Milan. Piace tantissimo a me Milano, piace tantissimo anche a Becky. In realtà Becky è stata qui a Milano per un breve periodo di tempo in uno dei libri precedenti, e visto che mi sembra che tutti chiedano a gran voce che Becky venga qui, ci dovrò pensare, insomma, vedrò un attimino che cosa fare. Se poi la cosa dovesse implicare un sacco di ricerca da condursi qui a Milano, vuol dire che sarà durissima, ma verrò, cosa devo fare? È comunque bello essere qui, mi piace tantissimo la moda italiana, mi piace fare shopping qui in Italia, e tra l'altro oggi indosso un vestito di Prada in un certo senso in omaggio alla moda italiana, però mi piace andare in giro, mi piace andare per esempio nei negozi di Max Mara, ma vado anche a passeggio, vedo un attimino quali sono i nuovi stili, perché a volte un brand non necessariamente significa lo stile che mi piace in quel momento, quindi passeggio e vedo. Different styles from, even if we have the same label in London, we don't have the same clothes, so it's always a huge treat. Se ti serve una guida per Milano, mi offro volontaria. Perfect, that's a deal. That's a date, I can't wait. Ok, è fatta, d'accordo. Si può svelare il budget mensile delle spese di Sophie Kinsella per vestiti, accessori, scarpe? My husband is sitting in the room, what do you think? Il marito qui, non so. Vogliamo fare una domanda alternativa? Ci sono dei libri per bambini che hanno un successo veramente strepitoso. Uno di questi è Il diario di una schiappa. Poco tempo fa è uscito in Italia l'ottavo volume della serie, intitolato Sfortuna Nera. Ricordiamo, l'autore Jeff Kinney lo pubblica in Italia, Il Castoro. Dicevo che è una saga veramente di successo fra i bambini, diciamo fra gli 8 e i 12-13 anni. Il protagonista di questi libri è Greg, un ragazzino ragazzino a cui ne succedono un po' di tutti i colori. Però, insomma, al di là della trama di quest'ultimo Diario di una schiappa a sfortuna nera, insomma, perché questa saga piace così tanto? Eh beh, l'abbiamo domandato ai diretti interessati, ossia i bambini. Mi piace perché è divertente ed è molto spiritoso. È divertente perché è sempre nei guai e sbaglia sempre tutto. Mi piace tutto perché Greg è scemo. Greg è molto scemo. È troppo divertente. A me mi piace Roderick. Mi piace che quando fa dei dispetti. È davvero un fratello terribile. Non lo è vero, racconto un episodio. Cioè, un giorno, il primo giorno d'estate, Roderick ha svegliato Greg nel bel mezzo della notte dicendogli che ha dormito tutta l'estate e che era in ritardo a scuola. Aveva chiuso le tende per non fare vedere il buio e si era già vestito da scuola. Si era già vestito con lo zaino e i vestiti da scuola. Allora Greg ci ha creduto e è andato a farsi cornflakes, solamente che ha fatto troppo rumore, il papà si è svegliato e gli ha chiesto perché si mangiava i cornflakes alle 3 del mattino. A proposito di libri per bambini e ragazzi, vi segnalo che ha aperto proprio da poco online la libreria dei ragazzi.it. Si tratta della prima libreria dedicata proprio ai ragazzi online, quindi insomma in qualsiasi parte d'Italia ci si trovi, se non si ha a disposizione una libreria specializzata proprio per bambini e ragazzi, si può andare sul sito libreriadeiragazzi.it e si può per esempio fare una scelta per fascia di età, 0-3 anni, 3-5 anni, insomma, e così via. Si può decidere il genere che si intende acquistare o che si intende visionare, di cui insomma si vuole sapere qualcosa in più, e quindi attraverso la scheda di questi libri si può capire che cosa può essere utile ai bambini e ai ragazzi. Vi ricordo dunque il sito, che è online veramente da alcuni giorni, la libreria dei ragazzi.it. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri, grazie in regia a Paolo Corleoni. Come sempre vi ricordo che l'appuntamento col Cacciatore di Libri è il sabato alle 6:30 per i mattinieri e alle 22 dopo il GR per chi insomma non ama svegliarsi così presto. E vi ricordo anche che l'appuntamento con i libri si trova anche all'interno del nuovo programma di Radio 24 del sabato, Il Sabato del Villaggio, in onda dalle 15 alle 17. Mi trovate su Twitter come Ale Teddina e su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio 24. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.